Buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Basement Records, i vinili di recupero del vostro e del nostro sabato sera. Finalmente mi sono ricordato di riportare la sigla ufficiale, ovvero quella che abbiamo appena ascoltato. L'Esiper Sound con Psyché Rock, il divertissement pop di Pierre Henry, uno dei nomi tutelari della musique concrète francese, e questo era il suo gruppo pop per staccare un attimo dalla musica accademica, come amo sempre ricordare. Poi Matt Groening lo ha reso celebre usandolo come sigla per il suo Futurama, come ricordo sempre, picciato a più 5, se lo volete fare come la sigla di Futurama. Oggi non l'ho fatto, l'ho lasciato nella sua velocità originale, però ovviamente, essendo la testa che spero abbiate imparato a conoscere, oggi mi sono ricordato di portare la sigla ufficiale di Basement Records, però mi sono dimenticato di portare sia le sigle sia i centrini per centrare perfettamente i 7 pollici, quindi si farà un po' a spanne per i 7 pollici che ho portato stasera. Però vabbè, chi ascolta Basement sa che sono i vinili di recupero e anche il conduttore è di recupero, quindi si fa sempre all'evenienza, insomma, ogni puntata c'è qualcosa di nuovo da aggiungere o da sottrarre, non si sa mai. Però, come amo sempre ricordare, prima di cominciare appunto ad ascoltarci i vinili di recupero di stasera, è bene ricordare tutti i vari indirizzi e i posti per ascoltare, per mettervi in contatto qui con noi di Radio Wombat e quindi di conseguenza anche con me con Basement Records e Tonight Alive, se proprio ne aveste voglia. Il sito è sempre lo stesso, radiowombat.net, la nostra frequenza in onde medie, in onde mediocri per gli amici nella zona di Firenze è sempre 1359 1359 in AM sulle vostre autoradio, nonché radioline se abitate nei dintorni del comune di Firenze o magari la notte, che ne so, se siete in Russia, anzi no, in Russia ora no, non vi conviene, o in questo preciso momento mettiamo un posto lontano dove la notte magari le onde medie arrivano lontanissimo e se siete, che ne so, a Kuopio in Finlandia magari ci potrete ascoltare nell'1359 durante la notte, magari Radio Wombat in AM di notte, chissà, magari arriva fino a Kuopio, chi lo sa. Fatecelo sapere se ci sentite di notte in posti assurdi, perché sarebbe molto interessante da scoprire. E la nostra posta, l'indirizzo di posta è sempre lo stesso, posta wombat at insiberia.net. I nostri canali social, perché che se ne dica, siamo anche un po' social, per rimanere sempre aggiornati all'ultimo minuto sulle novità di Radio Wombat, i nostri due canali social sono su twitter.com slash Radio Wombat Fi e su Facebook facebook.com/Radio Wombat Firenze. Mi raccomando, non ve lo scordate. Il prossimo vinile di recupero in realtà ve l'avevo già proposto la volta scorsa, ma come sigla, perché con la testa che ho ovviamente mi ero dimenticato, come già detto, la sigla originale di Basement Records, ovvero Lazy Pear Sound, e vi avevo fatto ascoltare questo sketch, diciamo, sketch tra teatro e avanspettacolo, direi più avanspettacolo, visto che è molto, molto ironico come registrazione, in vernacolo fiorentino, quindi direi che fa molto ridere, fa ridere chi è di Firenze come me, mi immagino gli altri dalle altre regioni, magari fa ancora più ridere o forse no, chi lo sa, me lo farete sapere. Comunque, appunto, il 7 pollici in questione è una registrazione appunto di questo sketch di avanspettacolo fatta da Aurelio Aureli, detto Agnello, e da Ray Monti. Si tratta di Ubriachi in trattoria. Ve lo faccio riascoltare perché non so, magari mi ci ritrovo particolarmente e a me era particolarmente piaciuto e quindi volevo dargli una seconda possibilità qui a Basement Records a questo 7 pollici, giusto così per cominciare a cuor leggero, un divertissement. Ci andremo ad ascoltare, riascoltare appunto Ubriachi in trattoria di Aurelio Aureli, detto Agnello, e Ray Monti. Qui ovviamente siamo sempre su Radio Wombat e sono i vinili di recupero di Basement Records. Aspettate che vedo che non avendo portato il centrino, guardo di far girare abbastanza dritto il disco per non farlo deformare troppo, ma basement e basement e via! Già lo dicevi mio nonno, Ricordati che il vino da una parte fa bene, ma da quell'altra e fa male. Perché io sono crudo, va? Da quell'altra non lo bevo. Sì, ma te e tu ti imbriachi sempre. E non è mia colpa mia. Il guaio è che quando ho bevuto un bicchiere di vino e mi sento un altro, quell'altro gli ha sete e io ribevi. Ma la sua moglie non ti dice nulla. Bah, e gli ha comprato anche la ciabatta elettrica, l'ha infissa la spina e la fa ogni cosa da sé. Allora anche a casa sua e comanda la sua moglie. La mia moglie? Che testa, è tutto priato, guarda. La mia moglie la vedo sempre in ginocchio. Sì, perché vedi, io sono sotto il letto e lei in ginocchio con la granata più fuori di lì. E io dico no, in casa mia comando io e fuori che mi pare. Oh, Aurelio, che sa andare a mangiare un boccone in trattoria? Sicuro, così ci si imbriaca come tegoli e ci si diverte. Perché in ogni trattoria e tu senti una barzelletta. Cavaliere, il mio nido e c'è una mosca. Signore, mi dispiace, ma non è possibile. Come non è possibile? O questa non è una mosca? Sì, ma questo lo mangia lei un mio coniglio. Cameriere, e che c'è di primo? Di primo penne. E di secondo? Calamai. Allora fa una cosa, portami anche un foglio e una busta, così scrivo anche alla sua sorella. Cameriere, la mi porta un bel antipasto. Un piatto di lasagne prima che venga la confusione. E di secondo che li porto? Una bella bistecca, un'insalatina, formaggio, frutta, vino, caffè, tutto prima che venga la confusione. Senta, io li porto ogni cosa, ma lei che mi dice di che confusione la parla? Di quella che verrà quando dopo aver mangiato ogni cosa e ti dirò che ho uno soldi per pagare il conto. Cameriere, vuoi che lo fa con il dito dentro la mia minestra? Vede, signore, e c'ho un giraio. E per farlo maturare, e lo tengo nel brodino cardo. O per via di che lei il dito non se lo mette da un'altra parte? Sì, sì, lo fa. Ma lo fa in cucina, in dove non mi vede nessuno. Cameriere, ma questa pasta non sa di nulla. Ma che c'è il formaggio? E gli è dentro. E il burro? Gli è dentro. Il sale? Gli è dentro. E il pepe? Gli è dentro. Cameriere, la mi mandi il padrone? Un posto. Per via di che ne? Gli è dentro anche lui, l'hanno arrestato stamani. Ma questo si fa per ridere. Se vuoi voler mangiare bene, venire in Toscana. E c'è tanta roba buona. E c'è anche tante trattorie. E c'è tanti briachi. A me fa sempre tanto ridere. Non potevo non riproporla anche questa volta. Questa seconda volta a Basement, fantastici, Aurelio e Ray Monti con questo sketch di ubriachi in trattoria. Il lato B è il vigile urbano, però me lo terrò magari per un'altra volta, per un'altra puntata di Basement. Non vogliamo scoprire le carte così subito facendovelo ascoltare tutto. Allora, a proposito di Sette Pollici, di Sette Pollici di recupero particolarmente irriverenti, l'ultima volta appunto che sono andato a recuperare vinili all'associazione senza scopo di lucro Manitese, che continuo a ringraziare per far andare avanti Basement Records, seguendo la scia appunto di questi Sette Pollici estremamente sarcastici e divertenti, partito tutto, come ricorderete, dalla famosa Sposa alla Betone, cantata dal trio Marino con la Mirella, ne ho trovati altri, però ecco, non eravamo assolutamente ai livelli della sposa alla Betone, anzi, cioè, alcuni non ve li proporrò proprio perché sono veramente, ma veramente sessisti e quindi noi, essendo Radio Wombat, li rifiutiamo in maniera totale, anche se sono divertenti, cioè, sono divertenti fino a un certo punto perché sono anche estremamente pesanti a livello di linguaggio e di doppi sensi, nonostante sia tutta roba non senza una data, ma presumibilmente intorno agli inizi degli anni 60. E insomma, secondo me non erano da proporvi, però vi posso proporre il lato B di questo 7 pollici, che in realtà la copertina sarebbe La vendetta dell'uccello, cantata da Pino Piacentino. In questo caso non ci ascolteremo il lato A perché rientra appunto nella categoria che stavo dicendo prima, però ci ascolteremo il lato B, che è Il cacciatore nel bosco, cantata da Tony Valente, sempre composta da Pino Piacentino. Ora, la copertina di questo 7 pollici è estremamente esplicativa. Diciamo, è un bozzetto, è un dipinto con una ragazza particolarmente avvenente e un uccellino che fischia con un fucile in mano. Non vi dico altro perché tanto già vi potrete immaginare, però quello che mi ha particolarmente colpito è che nel retrocopertina, scritto bello grande, c'è scritto proprio vietato l'ascolto nei locali pubblici e vietato la vendita e l'ascolto ad i minori di 16 anni. E vi lascio immaginare. Questo è un 7 pollici della Caporal Records, etichetta italiana, sinceramente che non conoscevo, ma la mia ignoranza è notoria. E appunto cioè adesso ci andremo ad ascoltare il lato B di questo 7 pollici, che appunto è Il cacciatore nel bosco, sempre composta appunto da Pino Piacentino, ma cantata da Tony Valente. Fatemi sapere cosa ne pensate e se ho scelto bene. Siamo naturalmente sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, dove se no. Il cacciatore nel bosco trova una contadinella, tanto graziosa e bella, che cacciatore si innamorò. Tanto graziosa e bella, che cacciatore si innamorò. La prese per una mano, poi la condusse a sedere, tra i gusti e i piaceri ed al godere. La novellina s'addormentò, tra i gusti e i piaceri ed al godere. La novellina s'addormentò, la novellina si sveglia, il cacciatore non c'era, ahimè, m'hai rotto il velo, m'hai rotto il velo, cuore crudele tu m'hai tradito, ahimè, m'hai rotto il velo, m'hai rotto il velo, cuore crudele tu m'hai tradito. No, io non t'ho tradita, non sono un traditore, io son quel cacciatore, son la delizia del tuo bel cuor, io son quel cacciatore, sola delizia del tuo bel cuor. E se la mamma non vuole, noi la faremo volere. Andremo tanto lontano, tanto lontano, poi alla fine ci sposeremo. Andremo tanto lontano, tanto lontano, poi alla fine ci sposeremo. Poi alla fine ci sposeremo. Poi alla fine ci sposeremo. E questo era Tony Valente con Il cacciatore nel bosco. Doppi sensi parecchio espliciti, ma niente di particolarmente trascendentale. Ve lo dico, cioè, dopo aver ascoltato gli altri sette pollici di cui vi parlavo prima, che erano veramente pesanti. Però cambiamo completamente genere, perché in questa puntata che ho preparato stasera sarà... si parte così, ridendo, scherzando con questi brani un po' così scanzonatori, cioè mi veniva da dire quasi scazzoni, però insomma una partenza molto leggera, perché poi tenderò a portarvi da un'altra parte alla fine della puntata che ho preparato, però vi ci porterò piano piano, non vi traumatizzerò. E il prossimo step, a proposito di irriverenza, è uno dei principi della trasgressione della musica degli anni 50, fine degli anni 50, inizio degli anni 60, e stiamo parlando del leggendario Piccolo Riccardo, il mitico Little Richards, che è stato veramente uno degli anelli di congiunzione tra appunto il rhythm and blues più truce e l'inizio del rock and roll, rhythm and blues più truce, nel senso che Little Richards era un personaggio, come spero saprete, abbastanza particolare, soprattutto molto avanti per i tempi, visto che stiamo parlando appunto del periodo a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 in America. Siamo in piena esplosione di quello che i bianchi chiameranno rock and roll, e Little Richards sicuramente è uno dei suoi esponenti più conosciuti, nonostante appunto fosse dichiaratamente omosessuale, si esibiva truccato e travestito. Mi è tra l'altro giunta notizia, e per questa notizia ringrazio già da adesso Vladimiri, che in realtà sembra che il piccolo Riccardo si fosse ispirato a un altro personaggio, a un altro travestito, che si chiamava Escherita, che tra l'altro chi lo conosce, ovvero Bloody Mary, mi stava appunto raccontando che Little Richards ha copiato pesantemente sia il look che i modi di Escherita, quindi possiamo dare adito appunto a questa figura minore di aver diciamo aiutato e dato il là, essendo la copia originale di quello che poi sarà conosciuto in tutto il mondo come uno dei maggiori interpreti del rock and roll, ovvero Little Richards. Che dire, c'è poco da dire su, cioè ci sarebbe tantissimo da dire su Little Richards, però intanto ascoltiamoci il primo brano selezionato per voi da questo vinile di recupero di stasera, che tra l'altro è un disco di live, registrato live. Infatti è Little Richards at His Wildest, volume 1, del 1974. E dal lato A di questo vinile adesso ci andremo ad ascoltare Baby, What You Want Me To Do, Little Richards. Basement Records, naturalmente, Radio Wombat. You got me running, you got me hiding, you got me run high, hide, running anywhere you want and let it roll. Doing what you want, baby, baby, baby, baby, what you want me to do? Do it now, Rick. I'm going up, I'm going down, I'm going up, down, down, up, any way you want it, let it roll. My, my, my, my, baby. You got me doing what you want, baby, what you want me to do. What you want me to do? E questa era Baby Want You, Baby What You Want Me To Do di Little Richards, qui proprio nella sua versione da shouter, da urlatore rhythm and blues. E si capisce appunto poi da dove derivi, no, quello che i bianchi poi hanno chiamato rock and roll, non era nient'altro che il rhythm and blues, edulcorato da certe mosse, da certi doppi sensi che c'erano, e poi è stato fatto cantare appunto da interpreti bianchi, e improvvisamente si è formato è nato, diciamo, tra virgolette, quello che poi è stato chiamato rock and roll, ma in realtà il rock and roll non era nient'altro che il rhythm and blues, un po' ripulito, diciamo, per farlo comprare ai giovani ragazzi bianchi che in quel momento post bellico iniziavano ad avere un po' di soldi in tasca, quindi erano diventati un pubblico a cui vendere appunto la musica in questo caso, ed è stato fatto, diciamo, ad hoc, coniato il termine rock and roll, per farlo piacere anche al pubblico bianco, che il rhythm and blues non gli piaceva un granché, era una roba un po' troppo da neri del ghetto, e quindi non andava bene per le brave persone bianche, diciamo così. Però ecco, adesso ci andremo ad ascoltare un secondo brano di Little Richards, questo molto più famoso, credo, rispetto al precedente brano che ci siamo appena finiti di ascoltare. Questa è Good Golly Miss Molly, un grande classicone della discografia di Little Richards, e questo è Little Richards at His Wildest, come recita appunto il centrino di questo vinile di recupero, con la data del 1974 incisa sopra. Qui siamo sempre a Basement Records con i suoi vinili di recupero, appunto, e naturalmente qui su Radio Wombat, e dove se no. Good golly, Miss Molly, sure like the ball. Good golly, Miss Molly, sure like the ball. Oh, when you're rocking down the road, can you hear your mama call? Good golly, Miss Molly, sure like the ball. Good golly, Miss Molly, sure like the ball. Oh, when you're rocking down the road, I can hear your mama call. Good golly, Miss Molly, sure like the ball. Oh, when you're rocking and a rolling, I can hear your mama call. E questo era appunto Good Golly Miss Molly di Little Richards. Questo è un brano molto più sostenuto a livello di ritmo, direi, rispetto al precedente. È un po', direi, uno dei brani manifesto di Little Richards. Però, proseguendo appunto nei vinili di recupero di stasera, come già anticipato, un passettino alla volta da uno dei più grandi peccatori. Adesso invece andremo proprio sul lato opposto, con una delle direi sicuramente la regina del gospel, quindi appunto andiamo completamente da un'altra parte, dalle cose terrene e molto carnali di Little Richards. Adesso entreremo nelle chiese battiste la mitica Mahalia Jackson ci farà avvicinare a chi è credente più in alto, come dice appunto anche il titolo della prima canzone che vi farò ascoltare. Ma per chi non la conoscesse, Mahalia Jackson è stata veramente a detta di tutti, la più grande cantante gospel che sia stata registrata fino adesso. La sua era una vita veramente, cioè non registrava gospel solo così, diciamo, per fare i soldi. Era veramente cresciuta dentro a una chiesa, e aveva iniziato a cantare nel coro delle chiese battiste fin da molto piccola, visto che non mi ricordo, uno dei due genitori l'aveva perso molto, molto precocemente. Era stata affidata alla zia materna, che era una fervente religiosa, e quindi praticamente era stata fatta crescere dentro una chiesa, anche perché voglio ricordare che in quegli anni, stiamo parlando di inizio Novecento, le chiese erano uno dei pochi posti in cui ai neri era concesso di aggregarsi al di fuori del lavoro, e quindi naturalmente molti erano dei ferventi religiosi, anche perché appunto per andare avanti con quella vita a qualche cosa dovevano credere per poter andare avanti. E quindi da qui, nel senso, da Mahalia Jackson poi c'è stata l'esplosione del fenomeno gospel. E non che non fossero state re registrate prima canzoni a tema religioso, a tema gospel, ovviamente, però Mahalia Jackson era veramente di un altro pianeta, e per l'epoca, e stiamo parlando appunto degli anni, in questo caso degli anni 40, ci fu veramente un'esplosione di vendite dei vinili registrati appunto da Mahalia Jackson, e quindi furbamente le etichette discografiche ricominciarono a registrare brani gospel, perché effettivamente avevano un notevole pubblico che li comprava, nonostante i soldi fossero molto molto pochi. Ma appunto per la popolazione nera media, diciamo, appunto non c'era via di mezzo: o te andavi a ascoltare il blues e il rhythm and blues, quindi la carnalità proprio fatta suono, oppure il lato opposto, temi religiosi e gospel. E appunto da questa raccolta di Mahalia Jackson, tra l'altro una raccolta di cui ho vari numeri, perché era delle raccolte che edite dalla casa editrice Fabbri Editori, e facevano queste raccolte con i grandi del jazz. Direte: cosa ci hai appena detto, che Mahalia Jackson, gospel, la più grande? Sì, però come potrete benissimo ad ascoltare ora nei due brani che ci andremo ad ascoltare, non uno di seguito all'altro, ma appunto prima ci ascolteremo questo suo brano famosissimo, che è I Will Move On Up A Little Higher. inizialmente registrata nel 1947, fu proprio il disco che fece fare il boom di vendite sia al gospel che a Mahalia Jackson. Potrete benissimo sentire che la Mahalia era, come già detto, assolutamente candida, cioè veramente una religiosa che credeva davvero in quello che stava cantando, però il suo modo di cantare, anche se i temi erano religiosi, è indubbiamente blues e jazz, con la tecnica usata poi appunto anche da tantissime altre cantanti che sono venute prima e dopo di lei, ovviamente. Il suo stile di canto è quello. La base è assolutamente gospel, gli inni del Signore, però si sente tantissimo l'influenza del blues e del jazz nel suo modo di cantare. E appunto, proprio per questo, adesso ci andremo ad ascoltare appunto I Will Move On Up A Little Higher di Mahalia Jackson, sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat. We're gonna live on forever. Questa era una registrazione del 1956, infatti si sente comunque, diciamo, tra virgolette, orchestrata con tutto un accompagnamento. Ricordiamoci che le canzoni gospel solitamente sono accompagnate solo o dal battito di mani o al massimo da un piano o un organo. In questo caso, infatti, la storica accompagnatrice, anche lei donna, appunto, di Mahalia Jackson, era Mildred Falls, una pianista che compare in tantissime, nella maggior parte delle registrazioni di Mahalia Jackson. Credo che fosse, tra l'altro, lei al piano anche in questa registrazione qua. È stata un po' una pioniera per quello che poi verrà definito, dico Mildred Falls, la pianista, per il modo di accompagnare appunto i canti gospel di Mahalia Jackson. Influenzerà tantissimo l'accompagnamento e l'arrangiamento di tantissimo soul poi che verrà negli anni seguenti. Quindi non solo Mahalia Jackson, ma anche Mildred Falls, che stava alle sue spalle come accompagnamento, influenzerà moltissima della musica a seguire. Avete sentito la stupenda, la meravigliosa voce di Mahalia Jackson. Mi ricorda tantissimo delle autentiche leggende del blues come Bessie Smith, oppure del jazz come Billie Holiday. Però io la accosterei più volentieri a Bessie Smith, perché entrambe avevano questa dote che riuscivano a cantare e a far immedesimare un po' tutti nelle loro canzoni e nei loro testi. Riuscivano a toccare un po' tutti con la loro voce, mentre Billie Holiday, un'altra voce esagerata a quei livelli lì, aveva una differenza, che cantava della sua personale sofferenza e non per appunto come immedesimazione anche degli altri. Se proprio vogliamo fare un rapporto e un confronto con altre autentiche leggende delle voci nere di quel periodo. A proposito di voci nere, nel momento appunto in cui Mahalia Jackson ha abbandonato questa valle di lacrime, al suo funerale, che è stato un funerale oceanico, era un'autentica star, colei che fu chiamata appunto a cantare per il suo funerale fu niente po' di meno che Aretha Franklin, giusto per continuare un altro passaggio di voci, leggendarie voci femminili nere, soltanto poi appunto Aretha Franklin sfocerà nel soul e poi addirittura anche nel funk e nella fase finale della sua carriera, addirittura della disco. Però è stato un po' un passaggio di consegne quella tra Mahalia Jackson e Aretha Franklin, due cantanti che io sinceramente adoro letteralmente. E appunto adesso andiamoci ad ascoltare un altro brano di Mahalia Jackson prima di passare al prossimo vinile. Questo è un brano più corto. Sempre un brano di ispirazione biblica. Questo è Joshua Fit the Battle of Jericho. Mahalia Jackson, i vinili di recupero di Basement Records, naturalmente qui su Radio Wombat. She did the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Hallelujah, Lord. She did the battle of Jericho, Jericho, Jericho. She did the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Talk about the men of Gideon. You may talk about the men of Saul, but they're not like the good old Jericho that morning. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Hallelujah. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Jericho, sword drawn in his right hand, go blow them home, cried Joshua, the battle is in my hand. That morning, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah, Joshua fit the battle of Jericho. Jericho, Jericho, Joshua fit the battle of Jericho and the wolves came tumbling down. Hallelujah, the wolves came tumbling down. That morning, the wolves came tumbling down. So glad the wolves came tumbling. Versione live, sfumiamo che se no parte la prossima. Non che no, no, non, la, non, la, non che non continuerei ad ascoltare Mahalia Jackson. A me piace tantissimo, però appunto dobbiamo andare avanti con la puntata e passiamo al passo successivo. Al prossimo vinile di recupero. Il nostro percorso ci riporta leggermente indietro nel tempo e siamo in territorio jazz, un jazz degli inizi, lo definirei un jazz prettamente ancorato alle radici di New Orleans. Infatti, questo è un vinile di recupero del mitico trombonista Kid Ory. Kid Ory era, almeno per quanto mi riguarda, l'ho conosciuto perché è stato uno dei leggendari membri degli Hot Five di Louis Armstrong, la band che rivoluzionò il suono jazz degli anni 20, capeggiata appunto dalla tromba di Louis Armstrong, e Kid Ory era il trombonista originale degli Hot Five di Louis Armstrong, che poi appunto diventeranno anche addirittura Hot Seven, mettendo altre due aggiunte alla band. È soprattutto famoso per questo motivo, ma in quel periodo era anche un autentico virtuoso del suo strumento. In questo caso, in questo vinile di recupero, devo dire che è particolare, perché appunto aver recuperato un vinile stampato in Danimarca, perché questo disco è stampato in una collaborazione danese-svedese del 1985 della Storyville Records. Ricordo che Storyville era il famosissimo quartiere a luci rosse di New Orleans, dove narra la leggenda che tutto sia iniziato, dove il ragtime e altre varie influenze fecero nascere il jazz. E appunto, però, scartabellando tra le informazioni, poi ho scoperto appunto che questo disco viene dalla Danimarca, grande, grandissima nazione amante del jazz. Forse in Europa solo la Francia può competere con la Danimarca in fatto di cultura jazz, e appunto questo vinile lo testimonia. Tra l'altro, guardando le note di copertina, vedo che questo disco c'è una nota scritta a penna dal secondo possessore di questo disco, direi, perché c'è scritto che è stato comprato da Terry Dalsh nell'agosto del 1987. Quindi appunto Terry Dalsh deve essersi comprato il disco, che è uscito nell'85, e dopo un paio d'anni l'ha passato a quest'altro proprietario, e 35 anni dopo è finito a Firenze, e è appunto qua a Basement Records tra le mie mani. Questo vinile si intitola Kid Ory's Creole Jazz Band at Club Hangover volume 6. Il Club Hangover era tra l'altro il nome del club è tutto un programma, era un famoso jazz club di San Francisco, esatto. Queste sono registrazioni del 1954, quindi siamo già all'interno del mondo del jazz. Possiamo dire che questo disco di Kid Ory era appunto un revival degli anni che furono la New Orleans, e era proprio il classico stile jazz di New Orleans. Vale la pena ricordare appunto i componenti che hanno registrato questo disco. Oltre a Kid Ory al trombone, abbiamo Alvin Alcorn alla tromba, Albert Burbank al clarinetto, Don Ewell al piano, Ed Garland al basso e Minor Hall alla batteria. E appunto adesso ci andremo ad ascoltare un pezzo che è un classicissimo, direi, veramente uno standard del New Orleans Jazz, ovvero Basin Street Blues. Un grande classico perché appunto Basin Street era la strada principale di Storyville, del quartiere a luci rosse di New Orleans. Abbiate un attimo di pazienza perché non vedo la divisione qui nella tana del Wombat, è tutto buio e non vedo la divisione delle tracce su questo vinile, quindi un attimo di attesa e vi farò sentire subito appunto Basin Street Blues di Kid Ory's Creole Jazz Band at Club Hangover, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Club Hangover. I think we ought to introduce you to all the fellows in the band. So, after that fine selection, starting right off in front here, we have Alvin Alcorn on trumpet, and on clarinet, Albert Burbank. Of course, the standby over there on bass, Ed Garland. Back on drums, Minor Ram Hall. Over there on piano is Don Ewell, and heading the whole thing up, head of the Creole Jazz Band on trombone, that man himself, Kid Ory. Well, you put them all together, and the music comes out like this when we hear Chinatown by Chinatown. Take it away, kid. Ovviamente era quella sbagliata. E allora andiamo al brano precedente che è Basin Street Blues, appunto. Vi ho detto che non si vedevano i solchi di questo vinile. Riproviamoci. Sì, è quella giusta. Bravi, bravi, meno bravo il vostro penafoco che ha sbagliato solco, però appunto ho delle giustificazioni. Guardiamo se riesco ad azzeccare il prossimo solco del prossimo pezzo che vi voglio far ascoltare, sempre di Kid Ory con la sua Creole Jazz Band. Difficilissimo, difficilissimo, non si vede, non lo vedo neanche alla luce. Non lo vedo neanche alla luce il solco, e probabilmente è perché non c'è, perché è tutto live e è, quindi non ha il solco di stacco. Forse ce la posso fare a indovinare. Guardiamo, perché questo è un pezzone che, pensate voi, per essere appunto jazz, stiamo parlando degli anni 20, anni 30, il prossimo pezzo dura la bellezza di 8 minuti. E guardiamo se riesco a trovare il punto giusto, me lo saprete, lo sapremo a brevissimo. E se no, tanto è uguale. Sempre Kid Ory, sempre di Kid Ory si parla, e della sua Creole Jazz Band, appunto, qui ormai è in piena fase revival, perché è un disco con delle registrazioni del 1956, quindi sono già passati più di 20 anni dai veri fasti del jazz di New Orleans. Guardiamo, da qualche parte cominceremo. Questo è sempre Kid Ory's Creole Jazz Band at Club Hangover, San Francisco, 1954. Sempre qui, a Basement Records, Radio Wombat, vinili di recupero. Thank you. Oh, Russ Morgan was never like this. E questa era Wabash Blues della Kid Ory's Creole Jazz Band, un brano, tra l'altro mi ero scordato di dire il titolo prima, ma abbiamo risolto adesso. Wabash Blues, sto pezzo lunghissimo per gli standard appunto di quegli anni, anche se appunto come abbiamo detto in precedenza è una registrazione decisamente postuma, quando poi è ripartito il revival del suono di New Orleans. E a proposito del suono di New Orleans, anche il prossimo protagonista del prossimo vinile di recupero di stasera è un altro grande jazzista, sicuramente molto meno conosciuto di Kid Ory's, ma sempre di quegli anni e di quell'ambiente. Stiamo parlando appunto di Captain John Handy, che era un inizialmente nato come clarinettista, poi riconvertito al sax alto. E tra l'altro figura piuttosto misteriosa, io dico la verità, non prima di incrociare le mie sorti con questo recupero vinilico, non sapevo chi fosse Capitan John Handy. Infatti una figura diciamo tra virgolette minore, anche perché è stata riscoperta solamente con il revival del suono originario di New Orleans. Però da quanto ho potuto carpire dalle informazioni che ho trovato, era proprio uno della prima ondata del jazz a New Orleans. Infatti John Handy era nato nel Novecento e già nella prima metà degli anni 10 sappiamo con certezza che suonava nelle varie brass band della città. Però per varie ed eventuali sfortune non ha avuto la possibilità di essere registrato prima del revival degli anni 60 del suono di New Orleans. Però abbiamo molte storie delle sue precedenti appunto avventure nelle varie band della Louisiana. Addirittura sappiamo che era uno dei componenti delle orchestre che suonavano nei battelli lungo il Mississippi, e leggenda narra che addirittura fosse talmente bravo che nelle sue esibizioni nei battelli del Mississippi si presentassero anche componenti di un'altra di un altro leggendario, questa volta autentica leggenda delle acque del Mississippi, come la band di Faith Marable, che era la band più famosa in assoluto, che suonava sui battelli all'inizio del Novecento, tra l'altro in cui ha pure suonato per un periodo Louis Armstrong, per farvi capire appunto la grandezza della band di Faith Marable. E appunto si narra che quando si incrociavano le varie rotte, i componenti dell'orchestra di Faith Marable andassero a sentire John Handy, che a metà degli anni 20 abbandonò il clarinetto e si dedicò al sax alto. E tra l'altro questo è un disco del revival appunto degli anni 60, è proprio un album, e si intitola All Aboard, infatti, giusto per ricordare gli anni e i fasti dei mitologici battelli musicali del Mississippi, ed è Captain John Handy and his New Orleans Stompers. E vale assolutamente la pena di ricordare che erano i New Orleans Stompers del Capitan John Handy, ovvero Kit Thomas alla tromba, Jim Robinson al trombone, Sammy Remington al clarinetto, il capitano John Handy al sax alto ovviamente, Bill Sinclair al piano, Dick Griffith al banjo, Dick McCarthy al basso e Sammy Penn alla batteria. E appunto andiamoci ad ascoltare il primo pezzo, in questo caso sul lato A di questo vinile, un grandissimo classico degli standard di New Orleans, ovvero Come to Mardi Gras. Mardi Gras, un evento epico dell'anno che c'è nell'anno di New Orleans, dove appunto si sfidavano tutte le brass band della città e anche delle campagne limitrofe. Mardi Gras, che è stato un campo di allenamento di innumerevoli musicisti provenienti dall'area del sud degli Stati Uniti di quegli anni. E appunto adesso andiamoci ad ascoltare Come to Mardi Gras di Captain John Handy and his New Orleans Stompers, sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente. Su Radio Wombat. Questa era l'allegria del Mardi Gras di New Orleans. A me piace particolarmente questo suono così allegro, così spensierato di queste prime band, di queste brass band. Questa non era letteralmente una brass band, perché appunto c'era la batteria, il banjo, però si sente che il retroterra è quello. E visto che abbiamo fatto ascoltare di tutti due brani da ogni vinile, può essere da meno Capitan John Handy? Assolutamente no. E quindi da standard in standard ci andremo ad ascoltare un altro pezzo, questa volta uno standard del ragtime, ovvero Tiger Rag, un grande classico del ragtime, che lo ricordo in particolar modo nella versione di Jelly Roll Morton, ma è uno standard, l'ha reinterpretato chiunque. E appunto il ragtime è una delle maggiori influenze della generazione, della genesi del jazz come lo intendiamo oggi, e in special modo quella in particolare di New Orleans. Quindi adesso ci andremo ad ascoltare appunto Tiger Rag nella versione di Captain John Handy and his New Orleans Stompers, chiaramente sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records su Radio Wombat. Thank you. E questa era Tiger Egg di Captain John Handy and his New Orleans Stompers. Tipico suono questo di New Orleans, in questo caso un grande classico, uno standard del ragtime. Il prossimo passo sarà sempre in ambito jazz, ma andiamo un po' di anni avanti, non come anni di registrazione. Infatti qui siamo più o meno all'inizio degli anni 70 come registrazione, però completamente, totalmente un altro genere, un'altra tipologia di jazz. Stiamo parlando di un interprete europeo. Questo vinile di recupero, anche questo fa parte della raccolta dei grandi del jazz della Fabbri Editori. E il soggetto di cui andremo appunto a parlare è un europeo, in special modo stiamo parlando di Jean-Baptiste Frédéric Isidore Thielemans, per tutti, soprattutto poi una volta trasferito in America, conosciuto meglio come Toots Thielemans, appunto, anche perché i nomi erano abbastanza importanti e parecchi. Tra l'altro, interprete di origine belga, strano perché appunto solitamente il Belgio non è proprio tra le rotte e tra i luoghi più conosciuti per la tradizione jazzistica, però appunto Toots Thielemans si trasferì in Francia da molto giovane, era del 22, e dopo l'occupazione nazista del Belgio e dei Paesi Bassi, all'inizio proprio alla fine del 1930, appunto nel 1939, nel 40 si trasferì in Francia, luogo, come già detto, di grandissima tradizione jazz. Strano perché non veniva da una famiglia in cui la musica era radicata, anzi nessuno della sua famiglia suonava nessuno strumento, e nel 1942 il nostro Toots Thielemans inizia a suonare l'armonica a bocca. Ora, l'armonica a bocca, questo strumento è soprattutto riconosciuto in ambito blues. Basti ricordare due grandissimi interpreti del blues dell'armonica a bocca, come Sonny Boy Williamson II e Junior Wells, oppure in un ambito più folk ricordiamo appunto le chitarre e l'armonica di Bob Dylan e di Woody Guthrie. Però in ambito jazz è uno strumento diciamo abbastanza desueto. Una particolarità che ha reso Toots Thielemans un autentico pioniere dell'armonica a bocca nel jazz è che solitamente l'armonica a bocca viene suonata su una tonalità singola, invece Toots Thielemans la suonava in varie tonalità. Infatti poi l'hanno portato a esibirsi con l'armonica anche in ambito jazz, che era il suo ambito preferito. Tra l'altro poi dopo l'armonica a bocca imparò a suonare anche la chitarra e divenne anche più che discreto chitarrista, però il suo strumento principe è sempre stato, in quello in cui è riconosciuto, è l'armonica a bocca. Quando si trasferì in Francia, appunto subito dopo l'occupazione nazista del Belgio, lì conobbe, al di là della guerra ovviamente, altri grandi interpreti del jazz. Infatti fu, proprio anche dalle sue parole, fu profondamente influenzato dagli Hot Club di Django Reinhardt e fu sicuramente una delle sue principali ispirazioni per entrare nel mondo del jazz. E in Francia conobbe anche un altro grande jazzista francese, ovvero Stéphane Grappelli. E insieme a lui, alla fine degli anni 40, che stava arrivando gli eco della nuova ondata jazz di oltreatlantico, l'esplosione del bebop, decise appunto con Stéphane Grappelli di trasferirsi in America, precisamente a New York, dove tra l'altro dove gli venne riconosciuto subito un discreto successo. Infatti si hanno delle testimonianze che già in quella fine degli anni 40 si esibiva insieme a niente po' di meno che all'Henny Tristano, al Three Doices, nella mitica 52esima strada di New York, la strada del jazz. E da lì poi venne segnalato al grande direttore d'orchestra Benny Goodman, e entrò a far parte dell'orchestra di Benny Goodman, sia come chitarrista che come armonicista. E da lì diciamo che la strada poi è stata relativamente in discesa, via. Una volta che entri nella band di Benny Goodman, poi lì gli si sono aperte tutte le porte delle grandi orchestre, delle grandi collaborazioni con i giganti del jazz di oltre Atlantico. Però basta parlare di Toots the Elements e andiamocelo ad ascoltare. Il primo brano che ho selezionato per voi da questo vinile di recupero è il secondo brano del lato A. Stiamo parlando di I Never Told You di Toots the Elements, qui naturalmente ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. E questa era I Never Told You di Toots the Elements, brano bellissimo secondo me e che rende proprio l'idea dell'uso dell'armonica a bocca in ambito jazz, veramente, veramente, veramente notevole. E il prossimo brano che ci andremo ad ascoltare, stavolta dal lato B, ve lo faccio ascoltare perché poi mi servirà appunto come gancio per l'ultimo disco di stasera, che sarà quello dopo. Ci sono un sacco di in questo lato B, tra l'altro il primo brano che mi capita sotto gli occhi, al di là del primo e dell'ultimo, che sono due pezzi della Bracken, che era appunto una delle componenti della band che stava suonando in quel momento insieme a Toots the Elements, c'è questa accoppiata centrale, ovvero Daydream, che era un brano che Duke Ellington, il Duca, scrisse espressamente per il mitologico Johnny Hodges in collaborazione con Strayhorn. E, tra l'altro, appunto, anche questo bellissimo reinterpretato da Toots the Elements. Però quello che voglio farvi ascoltare, è perché mi ha incuriosito parecchio leggendo il titolo sul centrino, è il brano che ci andremo ad ascoltare adesso, che è niente po' di meno che Giant Steps di John Coltrane. E immaginatelo, cioè io non riuscivo ad immaginarmi un brano come Giant Steps, come poteva essere suonato con un'armonica a bocca. Era una cosa che sfuggiva alla mia comprensione. E appunto l'interpretazione di Toots rende merito alla sua maestria, indubbia maestria nello strumento, anche perché appunto andare a reinterpretare con l'armonica a bocca un brano incredibile e estremamente complesso come Giant Steps, che è un capolavoro assoluto della musica jazz, ma direi proprio della musica in generale, nonché uno dei brani più conosciuti di quella cosa molto simile a una divinità che era John Coltrane. Che altro aggiungere? Non posso fare altro che farvelo sentire. E magari vi stupirà come ha stupito anche me. Buon ascolto, sempre qui dai recuperi vinilici di Basement Records su Radio Wombat. Questo è Toots the Elements con Giant Steps di John Coltrane. Questo è il finale del brano precedente, eh? Anche qui i solchi non si vedono benissimo. Ma ora parte Giant Steps. Thank you. E questa era Giant Steps di John Coltrane, rifatta con l'armonica a bocca da Toots Thielemans, davvero tanta roba. E perché vi dicevo che mi serviva il gancio di John Coltrane per passare al prossimo e ultimo disco di stasera? Perché il prossimo disco di recupero, il prossimo vinile di recupero di stasera è un'altra raccolta appunto dei grandi del jazz e si tratta in questo caso di Albert Tyler, uno dei grandi, grandissimi sassofonisti, nonché interpreti di quel periodo successivo della musica jazz. Ovvero il momento della New Thing, di quella che poi verrà chiamato Free Jazz. Quindi siamo già negli anni 60, in questo caso, in queste registrazioni, parliamo del 1964, e era il momento in cui appunto prima della New Thing, del Free Jazz, il jazz stava mostrando un po' la corda. Ormai la possibilità espressiva della variazione tonale stava mostrando appunto tutti i suoi limiti e ci sono stati un gruppo di pionieri che hanno deciso di sovvertire completamente tutte le regole della musica jazz conosciute fino a quel momento, anche perché era, tra l'altro, questa sovversione delle regole ha anche e soprattutto una connotazione politica. Gli esponenti della prima onda della New Thing, del free jazz, erano tutti neri. Molti, la maggior parte dei loro, tutti all'interno, che vivevano all'interno della lotta dei diritti civili che era al suo apice in quegli anni, e questa sovversione delle regole era anche proprio un messaggio a livello sociale. John Coltrane appunto era uno di questi, ma insieme a Ornette Coleman, a Archie Shepp, a Horace Silver, Max Roach, Art Blakey, scusate se me ne scordo qualcuno dei maggiori, Cecil Taylor, Albert Tyler. Rispetto a quelli nominati fino adesso, non aveva un grande riconoscimento fino a quegli inizi degli anni 60. Era, sì, si stava facendo le ossa in giro, anche suonando con discreti nomi, ma diciamo che fino a quel momento era un interprete secondario. La svolta avvenne quando poi iniziò il sodalizio con il grande pianista Cecil Taylor, e da lì poi la New Thing, la sovversione delle regole, l'abbandono dell'improvvisazione tonale per quella modale. Mi sono scordato appunto Miles Davis, scusate tantissimo, tra quelli che dovevo nominare per questa novità. E direi anche che Tyler, insieme a Cecil Taylor, sono stati tra i più, cioè almeno per il mio background jazzistico. Tra i più ostici, tra quelli con cui ho fatto più fatica ad avvicinarmi e ad apprezzare. Cecil Taylor ancora tuttora un po' lo è, sicuramente preferisco più Tyler di Taylor, anche se sono due strumenti diversi. Albert Tyler appunto era un un tenor sassofonista, poi anche lui come Coltrane e come Lacey passò dal tenore al soprano in alcuni casi, li suonava entrambi. E che dire, credo di essermi già soffermato svariate volte all'interno di precedenti trasmissioni a parlare dell'appunto del crack del free jazz da quel momento, da quell'inizio degli anni 60, in ambito jazzistico non è più rimasto niente di uguale a prima. Appunto, uno degli obiettivi era la sovversione delle regole, il totale disconoscimento di qualsiasi cosa avesse un appeal affabulatorio e commerciale, anzi, si andava verso proprio la direzione opposta, ovvero alla celebralità, all'intellettualismo, a tutti i messaggi nascosti dentro la musica, quasi l'abbandono della classica strofa, ritornello, ma anche della semplice melodia, un ritorno a suoni onomatopeici, una ricerca della estremità degli strumenti e dei suoni. Non voglio continuare a tormentarvi con questo pippone, ma ormai lo saprete, mi appassiona particolarmente. Non possiamo fare altro che andarci ad ascoltare i primi due brani del lato A di questo vinile di recupero. Ce li ascolteremo in sequenza, uno dietro l'altro. In questo caso stiamo parlando di Ghost, che è il primo brano che sarà seguito da Vibration, subito a seguire due brani piuttosto lunghi. Ghost dura quasi 8 minuti, Vibration quasi 5. Ce li ascolteremo uno di seguito all'altro. Tra l'altro, in queste due brani, tra gli accompagnatori di Albert Tyler, come non ricordare un altro gigante della New Thing che mi ero dimenticato di nominare in precedenza, ovvero Don Cherry, che in questo caso accompagna Albert Tyler alla tromba. Un altro che mi ero dimenticato di nominare tra quelli della New Thing, sicuramente anche Eric Dolphy, protagonista di una vecchia puntata di Tonight Alive, come ho fatto a dimenticarmi questi altri due giganti. Bene, questo è Albert Tyler con Ghost e Vibration, subito a seguire. Siete sempre qui con i pipponi di Basement Records, naturalmente qua su Radio Wombat. E dove se no? Thank you. Questo era appunto Albert Tyler con la doppietta di Ghost e Vibration. Questo era l'ultimo vinile di recupero di stasera. Torneremo, in questo caso al plurale, perché ci sarà un grandissimo ospite nella puntata di settimana prossima. Ripartirà, questa volta ve lo prometto, Tonight Alive. Non vi voglio anticipare niente, ma è un conduttore che faceva dei programmi prima qua su Radio Wombat. Non voglio anticiparvi altro. Non posso fare altro a questo punto di augurarvi un buon proseguo di fine settimana. Buon 25 aprile a tutti, che sarà lunedì. E vi lascio come di consueto al fine settimana e domani alla prosecuzione nell'ascolto del palinsesto qui di Radio Wombat. Un caro abbraccio e un saluto a tutti dal vostro Penafoco. Buon weekend, non fate i bravi e a settimana prossima. Basement Records, vinili di recupero. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente la migliore.